Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sono stati lanciati dei razzi verso la zona sud-est del confine tra Gaza e Israele. I corpi senza vita avvolti nelle lenzuola raccontano una giornata che, se i numeri fossero confermati, sarebbe la più sanguinosa dall'inizio del conflitto in Siria. Durante la notte, secondo i medici palestinesi, sarebbero state uccise nella striscia altre 11 persone, tra loro ci sarebbe un bambino. Oggi un attacco israeliano ha ucciso un alto comandante del Jihad Islamico, gruppo radicale palestinese all'origine della maggior parte dei lanci di razzi su Israele. Nel raid sarebbero rimaste uccise altre persone, secondo fonti mediche palestinesi. Il miliziano, quando è stato ucciso, si trovava all'interno di un palazzo che ospita redazioni di media locali, ma anche... La sintesi più cruda e più emotiva di quello che sta accadendo in Medio Oriente, vista attraverso quello che è lo spirito della rete, che sembra così importante ormai nel nostro paese per definire umori, stati d'animo, orientamenti politici, è divisa in due grandi punti di vista. I primi sono quelli che stanno postando su Facebook, attraverso Twitter, continuamente foto di bambini massacrati, con la dicitura evidente: guardate cosa sta succedendo, bambini palestinesi massacrati. La seconda sono quelli che rivendicano la non autenticità di questa foto o non l'esattezza cronologica: non sono bambini morti negli ultimi bombardamenti, ma sono bambini morti in altri bombardamenti, non sono bambini palestinesi, sono bambini di altre etnie. Ecco, io vorrei fare un passo avanti rispetto a questa visione emotiva ma non razionale. E vorrei capire questa mattina, anche perché nemmeno io ho le idee troppo chiare, bisogna essere profondi esperti di quello che sta accadendo negli ultimi 30 anni in Medio Oriente e poter dare delle risposte. E non so poi quanto sia possibile darsi delle risposte oggettive. Esiste una verità oggettiva rispetto al conflitto, alla tensione, a ciò che sta determinando oggi che ci siano un esercito di 30.000 persone, riservisti, pronti di fronte appunto a Gaza, per capire se ci sarà o non ci sarà questo attacco di terra, questa guerra nella più classica delle accezioni. Intanto leggiamo i titoli di giornali, in pagina interna, anche se con grande evidenza, i bombardamenti, il numero dei morti. Ma cosa sta accadendo veramente in Medio Oriente? Io vi prego di dare il vostro contributo raccontando quelle che sono le vostre perplessità, le vostre domande, anche il vostro punto di vista, che vada oltre lo scambiarsi foto di bambini massacrati. E io mi userò, e questa mattina mi avverrò, del contributo corroborante di due colleghi che invece ne sanno molto più di me. Ugo Tramballi, buongiorno. È caduto Ugo Tramballi. Per Luca Pucci Poppi, buongiorno. Buongiorno. Per Luca Pucci Poppi lo conoscete, è già intervenuto più volte nella nostra trasmissione, è un giornalista, sta in questo momento scrivendo un libro sull'Iran, ha pubblicato precedentemente Gheddafi, ascesa e caduta di un oppositore globale, a Liberty Editore. E con Per Luca abbiamo più volte seguito a tempo reale tutta la questione legata alla Libia. Abbiamo recuperato Tramballi? Pronto? Sì, ecco, Ugo Tramballi, buongiorno, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao, ti abbiamo ripreso. Tramballi ha un blog, Slow News, nel sito del Sole 24 Ore, ha seguito da tantissimi anni la questione israeliana. Su Israele ha pubblicato L'Ulivo e le Pietre, Israele e Palestina racconti in una terra divisa, Marco Tropea Editore 2002, Israele il sogno incompiuto, Marco Tropea Editore 2008. Inizio con te, Ugo Tramballi. È possibile, o forse la mia è una lettura del tutto personale, avere una visione oggettiva di ciò che sta accadendo attorno a Israele in questo momento? Bah, sì, nonostante tutto sì, a dispetto del nostro stupore di fronte alla grandezza magmatica di questa tragedia che sembra irrisolvibile e che si combatte ormai da troppi anni, in realtà sì, perché gli elementi della pace sono già stati inventati, non è che adesso improvvisamente, che so, domani Hamas, Bibi Netanyahu o chiunque altro deve cominciare a pensare qualche cosa, c'è già, cioè dall'inizio del processo di pace, quello di Oslo, Camp David, Tava e tutta un'altra serie di incontri che i negoziatori hanno fatto anche durante conflitti e altro, in realtà gli elementi della pace, gli unici elementi possibili di una pace possibile sono già stati scritti, sono nel cassetto. come dividere Gerusalemme, come garantire il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, come far rientrare le colonie, quante colonie dentro il territorio, dentro Israele. È già tutto stato deciso. Cioè ristabilire un equilibrio nella spartizione di questo territorio senza doversi riporre il problema annoso dal 48 in poi, perché, per come, per quando, esatto, cosa è stato fatto di giusto, di sbagliato. Deregolare una situazione che allo stato dei fatti è questa. Ci sono le percentuali, quanta gente può muoversi, quanto territorio Israele può avere, tutto, anche in termini percentuali, anche i numeri ci sono. Il problema è che manca la volontà politica, mancano le leadership politiche che vogliono riprendere questa cosa e applicarla una volta per tutte, sapendo benissimo che, come tutte le paci, a meno che tu non arrivi con i carri armati davanti al bunker di Berlino, una pace è il frutto di un compromesso doloroso, cioè la pace non è qualcosa di gioioso, la pace è un compromesso doloroso per chi la firma, perché chiunque deve, cioè, poiché è stato dimostrato che nessuno può vincere sull'altro una volta per tutte in questo conflitto, chiunque deve accettare un compromesso rispetto ai suoi sogni nazionali. Ecco Ramballi, questa frase ultima che hai detto vorrei riflettere, è un conflitto nel quale allo stato le cose nessuno ne può uscire vincitore totale, a meno che ci sia per paradosso lo sterminio totale dell'avversario, se no non si, una guerra così non ci sono le condizioni per cui qualcuno la vinca e qualcuno la perda. No, Israele ha vinto tantissime battaglie, tantissime guerre, ma mai la guerra definitiva. Se pigliamo anche il piccolo, che poi in realtà Gaza, nonostante la sua drammaticità, è un piccolo tassello del grande conflitto. Israele ha già invaso Gaza, l'ha occupata per 20 anni, se n'è andata, è ritornata e ogni praticamente volta, la circondata adesso da mura, la circondata adesso era una gabbia, almeno fino all'inizio di questa ultima crisi. Eppure i Qassam, ogni volta che gli israeliani credevano di aver fatto qualcosa, i Qassam ripartivano, quindi, ed è impossibile sradicare Hamas, o quantomeno impossibile sradicare Hamas militarmente dal fiume nel quale nuota, che è appunto la striscia di Gaza. Gli israeliani sono consapevoli di questo, ma allora perché tengono duro? Perché pensano di avere altre soluzioni? La risposta a questa tua domanda è la storia di Israele, la storia del popolo ebraico, le ragioni per cui è nato Israele. Israele nel tempo, poi una volta nato lo Stato ebraico, Israele nel tempo ha sempre più sviluppato le sue certezze nello sviluppare una potenza militare immane, perché credo che sia per qualità, per numero, eccetera, sia forse la terza forza armata del mondo. Questa mobilitazione dei riservisti nella storia degli ultimi anni è la più consistente, mi sembra. Beh sì, bisogna 75.000 riservisti non richiamati, ma comunque mobilitati, messi in allarme, sì, credo che si debba tornare. Cioè forse nemmeno, adesso non vorrei sbagliare, ma forse nemmeno durante la guerra, l'ultima guerra nel sud del Libano fra Hezbollah e Israele sono stati richiamati così, messi in mobilità così, mobilitazione così tanti militari. Il problema è che Israele, certo Hezbollah, adesso abbiamo citato Hezbollah, è un'organizzazione terroristica, Hamas è un'organizzazione terroristica, ma non sono solo un'organizzazione terroristica, sono anche partiti, hanno anche delle politiche. Il fatto che ovviamente provocati da questi movimenti sono stati proprio eletti, perché probabilmente chi c'era prima non dava questa idea di certezza di rappresentare un popolo inquieto, ecco, nella migliore delle ipotesi. Il fatto che Israele, per la storia di cui abbiamo parlato, ha sempre comunque prediletto l'arabo nemico, l'arabo che gli dà la certezza di essere un nemico, quindi si combatte così, e non invece, raramente andate a esplorare invece le opportunità di anche perché non si conferma un'identità senza nemici, certo. No, esatto. Però quelle poche volte che lo ha fatto ha firmato anche delle paci con gli arabi, con l'Egitto, con la Giordania. Quando c'è stato il processo di Oslo è andato avanti nella trattativa con i palestinesi, ha ottenuto da tanti paesi del Golfo la possibilità che si aprissero uffici commerciali. Cioè quelle poche volte in cui Israele è andato a sfidare la paura, perché è sempre rischioso accettare, provare il dialogo col nemico, quelle poche volte che l'ha fatto è stato un successo, però Israele tende a dimenticarlo e a richiudersi dentro la sua sicurezza militare e tecnologica. Allora sentiamo invece per Luca Pucci Poppi, dal tuo punto di vista di conoscitore e studioso dei paesi che stanno intorno. In questo momento mi sembra che pare che una funzione fondamentale l'abbia nella pace proprio l'Egitto. Perché proprio l'Egitto? L'Egitto, metà degli arabi al mondo vivono in Egitto. è una grande potenza, è lo stato confinante anche con Gaza, quindi può decidere dell'apertura o meno dei valichi come la fa. E adesso con questo nuovo... Questi valichi come sono stati usati nel tempo fra l'Egitto, diciamo, e Gaza? Anche per far passare armamenti che in genere provengono dall'Iran, e io volevo andare su questo, cioè c'è un attore esterno qui dentro e il principale è l'Iran. Quello che succede in Libano, in Siria e a Gaza è anche parte della guerra segreta o guerra per interposte fazioni che Iran e Israele conducono dai primi anni 90. E come mai in questo momento la vedo poco centrato, questo tuo punto di vista, dall'informazione che viene da quei territori? Ma i razzi che da Gaza vengono sparati su Israele sono in gran parte di fabbricazione iraniana. Che gli cioè non sono razzi artigianali fatti in casa? In parte sì, i Grad, che sono dei vecchi modelli sovietici, sì. Alcuni invece sono iraniani, i Fajr 5, eccetera. E questo nel caso di Hamas, che viene appoggiata e anche aiutata e armata da Teheran. Per quello che ne sai te, ma è vero che ultimamente alcuni di questi razzi addirittura sono ricaduti nei territori stessi? So che il sistema di difesa missilistico israeliano sembra funzionare molto bene, Iron Dome, detto cupola di ferro, cioè su 900 razzi loro lasciano partire i razzi che cadono su un campo, il sistema computerizzato riesce a decifrare quale sarà la traiettoria, e di questi, su questi 900 più o meno 600 sono caduti in posti innocui, gli altri 300 sono stati distrutti al 90%, è una cosa anche costosa perché i razzi di Gaza costano $1,000 l'uno, quelli intercettori israeliani $100,000 l'uno, però sembra che funzioni, questo è stato senz'altro un successo. Comunque anche è un terreno di test di altissima tecnologia, mai come in questo momento si stanno mettendo a punto sistemi di intercettazione così raffinati in una guerra sotto l'occhio di tutti praticamente. È un sistema fatto apposta per bloccare razzi a relativamente corta gittata, che sono gli unici a disposizione di Hamas. Ma per tornare all'Iran, l'Iran a destra arma Hezbollah, e lo fa anche molto bene, si è visto durante la guerra del 2006, dove gli israeliani non si aspettavano una resistenza così efficace. L'Iran aiuta il suo amico e alleato Assad e manda ufficiali dei Pasdaran ad aiutare le truppe lealiste di Assad. Ad agosto ne sono stati catturati 48 dalle forze anti-Assad, con le foto, fra cui un generale. Le foto dei passaporti, eccetera, eccetera. È un rapporto dei Mujahideen del Popolo, che è la principale forza di opposizione iraniana all'estero, un rapporto recente, ha cominciato a fare nomi, cognomi, unità di appartenenza, quindi c'è questa, questa è parte di questa guerra segreta, cioè non aperta, non sul campo di battaglia, che Israele e Iran fanno dai primi anni 90. Ad esempio nel 92 esplode l'ambasciata israeliana a Buenos Aires, 250 morti, tutti gli indizi portano a Teheran. Poi più recentemente ci sono molti scienziati nucleari iraniani che muoiono di morte non naturale, bombe, pallottole, è ovvio chi erano gli assassini. Oppure c'è una guerra di intelligence. Sì, la guerra di intelligence fatta fra servizi, appoggi a gruppi terroristici come Imad Mughniyeh, che è il nemico numero uno di Israele, lo hanno cercato, che era di casa a Teheran, l'hanno cercato per 20 anni finché non hanno fatto saltare in aria Damasco nel 2008, ma che questa è la guerra che va avanti, il che è anche innaturale perché Israele e Iran avrebbero tutto, sarebbero alleati naturali e lo sono stati, due paesi non arabi, due paesi non musulmani sunniti, che hanno degli interessi, avevano diciamo degli interessi convergenti in funzione anti-araba. Allora fermiamoci solo un secondo, che diamo voce a qualche ascoltatore. Abbiamo capito che la situazione già da questi primi minuti risulta molto più complessa di quello che può essere radicalizzato in una guerra di conquista del territorio. Cioè uno scenario molto ampio, uno scenario frastagliato e un combattere non soltanto a suon di razzi e contro razzi, ma anche di più complesse strategie. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Ciao, chiamo da Milano. Buongiorno dottor Nicoletti. La radio per gentilezza, Roberto, se no si sente lei. Sì, visto che ha due giornalisti in studio, una fase da tecnico e una fase personale. Allora, da tecnico non si può parlare né di conflitto né di guerra in Palestina. E come lo chiamerebbe? genocidio, lo chiamiamo genocidio, questa è la parte personale, perché i sistemi d'arma utilizzati dai palestinesi al 90% sono dei tubi metallici con propulsione a polvere, ma a caduta libera. Dall'altra parte si parla di missili a guida laser e a guida... Adesso non voglio entrare nelle specializzazioni, sì, però ci ha fatto capire Pucci Poppi che ci sono questi, ma ci sono anche altri, cioè, che vengono... Lei praticamente un missile Kassam, lei lo lancia e a caduta libera, non è neanche a testata esplosiva. Quindi è facile intercettarlo. È facile intercettarlo e poi è come buttarlo... Quindi questo per dire, lei Roberto, c'è una... di discrepanza di forza, discrepanza assoluta, cioè non si può parlare di conflitto. Poi se parliamo delle, questo è il suo punto personale, poi l'altro punto Roberto, niente, quello che lei mi ha anticipato prima, come la pensa, è un genocidio. Sostanzialmente Israele ha sempre pensato che la striscia di Gaza e i territori palestinesi fossero una loro pertinenza in cui abitano delle scimmiette, in cui si può dare da mangiare, si può togliere la luce quando si vuole, si può dare acqua, si può togliere l'acqua, si può dargli un po' di medicinali, togliergli i medicinali, ecco questo. Sì, questo che... è uno dei punti di vista rispetto a questa vicenda, ultimamente anche abbracciato da parte di israeliani stessi che hanno detto beh basta con questa storia, troviamo una svolta diversa, perché realmente non si può tenere un popolo in una grande prigione a cielo aperto. È un punto di vista. Alessio. Buongiorno, Coletti, saluto lei e i suoi ospiti, in particolare il dottor Damballi. Il mio intervento sarà molto breve, però è diviso in due. La prima parte è relativa al conflitto israelo-palestinese in generale, e se si va a cercare chi ha ragione e chi ha torto, è lo stesso gioco di andare a vedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Esattamente, cioè, quella che era la mia premessa. Se ogni volta rifacciamo la storia dal 48 in poi, anzi dalla fine dell'Ottocento, dalla nascita del movimento sionista, non chiudiamo mai, sì. Dalla Bibbia avanti, dai filistei e dagli ebrei, quindi cioè, insomma, addirittura. Però, d'altra parte, è vero anche che il diritto internazionale, se esiste, e Israele cerca di fare in modo che non esista, però se esiste, l'ONU si è espressa in maniera piuttosto chiara sul fatto che i territori siano territori occupati da Israele e quindi non secondo una legge internazionale. La seconda parte invece è relativa a Gaza in particolare e alla copertura mediatica. Il vostro GR delle 10 ha fatto un'operazione che ritengo interessante da un punto di vista comunicativo. Cioè l'inviata o la corrispondente o comunque chi si occupa della questione, credo fosse Valentina Forlanetto, ha detto si sono superati 100 morti tra entrambe le parti. Ecco, l'operazione secondo me non è corretta. Cioè si sono superati 100 morti già solo dalla parte palestinese e la parte invece israeliana ne ha subiti molti meno. Ora non sto a fare il bilancino. Lei sa l'esatta percentuale dei morti? Io non ce l'ho esattamente, però nei primi giorni si parlava di sotto la decina di morti israeliani e oltre l'ottantina di morti palestinesi. Beh, siamo qua. Ugo Tramballi, vediamo, l'ascoltatore ci ha posto questa domanda chiedendo una maggiore specifica. Tu puoi darci qualche elemento in più? Beh, le ultime di questa mattina complessivamente saremo più o meno su 125-3. Quattro anni fa Piombo Fuso fece, se vogliamo parlare di classifiche, fece 1.413 e dei 13 israeliani erano quasi tutti militari, la gran parte dei quali uccisi da fuoco amico per errore, mentre invece fra i 1.400 palestinesi più di 1.000 furono civili. Però senza, permettimi di sottolineare questo, cioè anche l'ultimo ascoltatore è partito benissimo, no? Dicendo chi ha ragione e chi ha torto, però anche lui poi alla fine è venuto sul conto dei morti, che ci mancherebbe altro, è giusto fare, perché il conto dei morti, tutti i morti saranno uguali, però quando sei 125 a 3 c'è qualcosa che non funziona. Però torniamo sempre a quel punto, cioè a quel punto che questa guerra, questo conflitto è così divisivo che alla fine chiunque prende parte, anzi anche quando non vuoi prendere parte ci viene trascinato. Nella mia esperienza personale, sono sfortunatamente contro la mia volontà da troppi anni che seguo questo conflitto, partecipando anche direttamente, voglio dire, da giovane, quando ero giovane, andare a lavorare in un kibbutz, tutte queste cose qua, cioè automaticamente io vengo definito antisemita da chi pensa che io debba essere filo israeliano oppure filo sionista, da chi invece ritiene che io debba essere filo palestinese. Mi rendo conto, vedi, hai capito lo sforzo nostro all'inizio di questa trasmissione di voler dare un'informazione, se possibile questa mattina, non voglio dire oggettiva, che l'oggettività è una grande chimera, ma non fortemente inquinata dalle passioni personali, se fosse possibile. Questo è il bombardamento di un aereo israeliano ai tunnel clandestini palestinesi che collegano Gaza all'Egitto. Proprio questi qui, che a poche centinaia di metri tra le due frontiere, sono usati dai palestinesi per fare contrabbando di merci di tutti i tipi. L'esercito israeliano non permette che entri nulla a Gaza senza il suo benestare, anche perché, oltre a farmaci e cibo, lì sotto passano armi, esplosivi e missili. E ci passiamo anche noi. Siamo costretti a passare in questi tunnel perché le frontiere egiziane sono chiuse e nonostante abbiamo chiesto più volte un regolare visto d'ingresso, non c'è mai stato accordato. Qui siamo dalla parte egiziana. E per questa è anche una delle nostre caratteristiche. Questa è la Iena Pelazza che passa attraverso, in un fantastico servizio, il tunnel che appunto passa dalla striscia di Gaza all'Egitto e incontra gli uni e gli altri, rischiando anche fortemente per lui. È proprio vero quello che diceva il collega Utramballi poco fa, leggo gli sms che mi arrivano e a seconda del punto di vista noi dobbiamo vergognarci perché non abbiamo la decenza di invitare qualcuno che parli le ragioni di Israele, oppure per esatta opposta ragione dobbiamo vergognarci perché non mostriamo con l'evidenza che merita quello che è appunto l'atto di vessazione e di genocidio che viene compiuto nei confronti del popolo palestinese. Ma io insisto nella mia linea e questa mattina voglio semplicemente, se possibile, se ci riesco, dare delle informazioni con dei colleghi di cui conosco e rispetto l'attenzione e la cura nel trattare questi argomenti. Sento qualche ascoltatore, prima Genoveffa, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo portare una testimonianza. Io sono, con mio marito siamo tornati 10 giorni fa da un viaggio in Israele e abbiamo avuto la possibilità di parlare con diverse persone. Volevo dire che Come turisti eravate andati? Sì, siamo andati come turisti facendo un viaggio organizzato che era misto fra visitare alcune città, Gerusalemme, Betlemme, eccetera, e un trekking nel deserto. Quindi abbiamo avuto delle guide cambiandole spesso e poi abbiamo incontrato... Cioè avete scelto proprio il periodo migliore per andare a fare il trekking nel deserto? E siamo tornati giusto prima, siamo tornati 10 giorni fa. Niente, volevo dire che con una persona che abbiamo parlato, che è italiana, ebrea, però che vive in un kibbutz da quando aveva 19 anni, una persona che avrà circa 70 anni, alla fine di tutto un discorso, quando gli abbiamo chiesto ma i coloni, gli insediamenti che si vedono, cioè girando si vedono anche in zone palestinesi insediamenti. Certo, continuamente, sono diventate delle città. Continuamente, e questa la risposta è stata, volevo precisare, questa persona è una persona democratica di sinistra. I palestinesi hanno tanti posti dove andare, se ne vadano in Egitto, in Siria, in Giordania. Ed era una persona. Un'altra invece che ci ha fatto da guida, questo però era un ex maggiore ma che aveva smesso, israeliano, smesso di fare quello perché non era d'accordo, lavorava come un insegnante e faceva a volte le guide, la guida poi. Questo invece, che è iscritto a movimenti pacifisti, ci diceva che il compito sarà un governo che non è certamente quello che hanno adesso, che dovrebbe imporre ai coloni di retrocedere, di smetterla di insediare, di prendersi altri spazi, però diceva che quando arriverà un governo così sarà la guerra civile. Va bene, questa è la sua esperienza di viaggio. Jamal, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Jamal di Roma. Sì. Io mi hai colpito di questa trasmissione, anche un po' precedenti, sempre di Radio 24 del sabato, della tecnologia. Sì, io rispondo delle mie, però, se permette, sì. Sì, se ne parlava che come Israele non poteva, tutte quelle che c'avevano, tutta la tecnologia che c'hanno in Israele, non ci riescono di magari individuare i razzi, quelle manuali da... Lei ha una sua idea tecnica. Sì, è una idea tecnica che le bombardamenti con i missili contro le razzi vengono trattati a una trasmissione di una radio importante in Italia. Ma qual è il suo punto? Stamattina si è iniziato con cosa succede vicino Israele, invece cosa succede vicino la Palestina, perché la Palestina la terra loro, quelle sono ospiti. Guarda, democrazia, io passo a un altro argomento, il mondo occidentale incita per la democrazia. La democrazia è iniziata per primo nel mondo arabo. Lei di dov'è, Jamal? Per capire, il suo paese d'origine qual è? Io sono marocchino. Io vivo in Italia e sono un attivista che ho partecipato per la gente libera che hanno morali nel mondo. Ho partecipato con loro in Libano, in Palestina, a Gaza, per gli aiuti umanitari. Questo, mi sembra il suo punto di vista è chiaro e l'ha chiaramente espresso. Per Luca Pucci Poppi, ricordo che sta scrivendo un libro sull'Iran, ha scritto precedentemente un libro su Gheddafi, sull'ascesa e caduta di Gheddafi. Vediamo, al di là adesso dei commenti e delle telefonate, di fare un punto un po' più ampio. Lo chiederò poi anche a Ugo Tramballi. La posizione degli Stati Uniti in questo momento, il giorno dopo la sua vittoriosa ascesa, seconda ascesa alla Casa Bianca, Barack Obama si trovato di fronte a due grossi problemi. L'uno, diciamo, di ordine interno, una questione pelosa legata al capo della CIA, e l'altra, questa questione su cui mi sembra che non si pronunci molto, qual è la posizione degli Stati Uniti rispetto a quello che sta accadendo in tutto il Medio Oriente, così facciamo contento anche Jamal. Obama cominciando dalla Siria, naturalmente. Dalla Siria, diciamo, cominciando, perché è un paese di cui adesso in questo momento si parla meno, perché l'attenzione perché l'attenzione è più concentrata su Gaza. Obama sta cercando di fare pressioni sull'Egitto per cercare di arrivare a un cessate il fuoco. E peraltro ricordo che l'Egitto sia un presidente dei Fratelli Musulmani moderato, nonostante la retorica anti-israeliana, perché le masse egiziane ovviamente sono anti-israeliane come tutte le masse arabe, però ricordo anche che l'Egitto è dipendente dagli Stati Uniti per gli aiuti militari e per gli aiuti economici. Se gli americani smettessero, come a volte alcuni congressmen deputati al Congresso degli Stati Uniti minacciano, smettessero di dare miliardi di dollari e persino grano con il quale fanno il pane gli egiziani, che è a prezzo politico, il paese esploderebbe. Quindi quando il presidente americano chiede al presidente egiziano di provare a fare qualcosa, come minimo viene ascoltato. È vero anche che in Israele si considera Obama non molto amico, cioè, la destra israeliana avrebbe preferito Romney, naturalmente. E poi... questo è strano, perché un tempo i repubblicani erano il partito, fra parentesi, pro-arabo, mentre i democratici, gli ebrei americani, votavano in massa democratico. Che le polarità sono cambiate in tutto il mondo e su tutte le questioni. Ci sono stati riallineamenti, sì, certo, non c'è dubbio. Ugo Tramballi, invece, dal tuo punto di vista, si è confermato quello che avevi detto te in chiusura della prima parte, ma noi andiamo avanti lo stesso. Vedo che sono molto preoccupati tutti di questa questione della diversità degli armamenti, ma è proprio questa la questione base. E anche te domando la posizione di Obama. Vedo che nel tuo blog c'è un post dell'altro ieri proprio di questo parla. Intanto scusa, permettimi solo di tornare, fare un passo indietro, posto che io non credo all'oggettività, anzi diffido tutti i lettori e gli ascoltatori, invito a diffidare anche lettori e ascoltatori da qualsiasi giornalista parli di oggettività. Se tu riesci nell'impresa, in questa trasmissione, io ti propongo per il Nobel per la No, ma oggettività significa non lasciarsi condizionare da quelle che sono le personali emotive prese di posizione, cercando di dare delle letture equilibrate. Come vedi, diamo possa di parola a tutti, e nemmeno io mi scompongo o mi accaloro. L'oggettività, lo so, l'ho detto all'inizio, che è una grande chimera, però cerco di parlarne, perché piuttosto che non parlarne, provo a parlarne cercando di far parlare tutti. Naturale, venendo allo squilibrio degli armamenti, e questo appunto è l'asset strategico di Israele nella regione, cioè la superiorità strategica militare è quella che garantisce sicurezza a Israele, al punto che Israele ha la bomba atomica, anzi anche se dice di non averla ce l'avrà, probabilmente sembra che abbia almeno tra 200 e 300 testate, ma non vuole che l'Iran la possa fare. Se noi ragionassimo sull'Iran, dimenticando per un momento, perché so che non è possibile, che in Iran c'è una teocrazia molto aggressiva, però l'Iran dal punto di vista della geopolitica, poiché nel mondo chiunque ha una bomba atomica conta qualcosa, chi non ce la conta molto meno, l'Iran ha il paese nucleare, la Russia a nord, il Pakistan a est, Israele a ovest, avrebbe tutto il diritto di avere la bomba atomica, e anzi in qualche modo in Europa l'equilibrio del terrore ha garantito 60 anni di pace, quindi in qualche modo Israele potrebbe anche accettare un nucleare iraniano per garantire un equilibrio. Naturalmente parlo di fantapolitica, in realtà Israele questo non accetterà mai, perché è sulla sua superiorità militare che fonda la sua sicurezza. Il fatto che lei abbia la bomba ce l'abbia soltanto lei. Esatto, però appunto non si può dire che questo non sia un problema importante, certo, però non è il problema più importante. La questione di fondo è che qui sono di fronte due aspirazioni nazionali, due risorgimenti, uno si chiama sionismo, l'altro si chiama Stato palestinese, ma sono due risorgimenti a confronto che ancora non hanno risolto. L'Iran è pronto ad arricchire uranio nel suo sito nucleare sotterraneo di Fordo. Per farlo avrebbe installato 2.784 centrifughe, circa 700 sono già in funzione, a dirlo un rapporto della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Sempre secondo il documento, Teheran ha la capacità di incrementare in modo netto la sua produzione di uranio nel sito nascosto sotto una montagna nei pressi della città santa sciita di Qom, dove ora si concentrano tutte le centrifughe. L'agenzia ONU ha accusato l'Iran di aver rimosso prove di... Mi ero interrotto con Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, ricordo che anche un blog sullo News, e stiamo rifacendo il punto su quello che mi sembra che è l'argomento che più accalora il pubblico. Leggo gli sms, non immaginavo una così profonda conoscenza della materia balistica nei nostri ascoltatori, anche se c'è chi mi scrive: hai ricevuto ordini di scuderia per fare questa trasmissione? No, mi è venuto in mente di farla ieri sera, perché io stesso ponevo tante domande. Ugo Tramballi. Ecco appunto esattamente quello che dicevo, come tocchi i fili muori. Sì, mancava l'aspetto americano. Hai citato i due problemi che improvvisamente Barack Obama si è trovato all'inizio, anzi la seconda amministrazione è ancora cominciata, alla fine della sua prima, appena dopo di essere stato eletto, e Petraeus e Gaza. In realtà c'è la madre di tutti i problemi, che è il fiscal cliff, che è la crisi economica. Questa è la ragione principale per cui gli Stati Uniti sono così distanti adesso da questa questione. La seconda è che Barack Obama detesta Bibi Netanyahu, come del resto lo detestava Bill Clinton, come lo detesta Sarkozy, come lo detesta quasi tutti i leader occidentali, perché Bibi Netanyahu è un retore molto brutale. Non dimentichiamo che Bibi Netanyahu è andato al congresso americano l'anno scorso a parlare davanti al congresso contro il presidente di quel congresso, cosa inusitata in Occidente, mentre invece lì la maggioranza repubblicana l'ha applaudito. E quindi adesso tocca a Barack Obama vendicarsi, nella speranza che adesso ci saranno le elezioni fra un mese e mezzo in Israele, che si crei un fronte di centrosinistra sul quale appunto Barack Obama possa appoggiarsi nella sua interferenza nell'elezione israeliana, come Bibi aveva fatto nell'elezione americana. E l'Iran è il cuore di questo confronto. Bibi Netanyahu ha trovato l'Iran come prima aveva trovato Saddam Hussein, prima ancora Arafat, prima ancora Nasser. Cioè Israele ha sempre avuto bisogno, come dicevi tu prima, di un nemico, non c'è niente di meglio di un nemico per definire la tua stessa esistenza. E quindi adesso il nemico è l'Iran, mentre invece Barack Obama, per quel poco che si è occupato di politica estera di Medio Oriente in questi 4 anni, comunque una cosa è chiara, cioè lui punta al dialogo. E il dialogo naturalmente, le pressioni diplomatiche contano in qualche modo, cioè il boicottaggio economico dell'Europa, per esempio, sull'Iran, l'unica cosa in cui l'Europa possa dire che conta, perché l'Iran e l'Europa avevano rapporti economici molto profondi, mentre gli Stati Uniti no. Improvvisamente, in meno di un anno, il rial, cioè la banconota iraniana, ha perso il 75% del suo valore. L'Iran è in crisi, quindi le pressioni, le battaglie appunto tecnologiche, mettendo i bugs dentro i computer nucleari iraniani, hanno servito pensato per guadagnare tempo, e i margini per una trattativa esistono ancora forti, posto che certamente l'Iran comunque l'obiettivo finale è quello di essere un paese nucleare, non tanto di avere la bomba quanto di avere la capacità di saperla assemblare. Devo dire che 2/3 dei paesi del mondo hanno raggiunto questa capacità, che ti permette di avvicinarsi ad avere la bomba, ma non violare il trattato sulla non proliferazione. Ecco, proprio perché, per capire meglio, ma quanto è legata poi la questione, la risoluzione della questione dei territori rispetto a questo scenario più ampio di altri paesi arabi che con Israele hanno un conflitto aperto? Perché in questo momento sembra che tutta l'attenzione è sui territori, vecchissima questione, anche se sempre cruenta, da una parte... I territori sono il catalizzatore, cioè, c'era Saddam Hussein, c'era la questione iraniana, e i territori è un oggetto emotivo che viene tirato fuori in questo momento. È un oggetto emotivo che però è anche sfortunatamente estremamente concreto. L'unico momento in cui non se n'è parlato in questi ultimi due anni è stato perché ci sono scoppiate le primavere arabe, le popolazioni arabe che per le quali comunque la Palestina resta una ferita aperta, perché è anche una forma, è un ricordo anche di un fallimento, di una sconfitta lacerante. L'unico momento è stato durante le primavere, quando le popolazioni arabe erano interessate alla loro democrazia, a scrivere le loro costituzioni, a fare le guerre civili come sta succedendo in Siria. Allora la questione palestinese è andata indietro, per questo infatti Hamas con la violenza ha per me comunque riuscito a riproporre la questione palestinese. Ha risparigliato nuovamente riportando su quella che è la questione concreta. Per Luca Pucciuvoppi, ma di queste primavere cosa è rimasto oggi? Scusami, volevo tornare, sì. Mi sembrava molto interessante. Effettivamente è in gioco una lotta per la supremazia regionale fra Iran e Israele. E questo dai primi anni 90, perché non era così. Iran e Israele erano alleati, come dicevo, sembrerebbero alleati naturali in funzione antiarabi, già sotto lo Shah di Persia, dove c'era una grande, forte collaborazione, ma persino sotto Khomeini, perché sotto la retorica anti-israeliana di Khomeini, intanto gli israeliani hanno salvato l'Iran nell'80 rifornendolo di armi durante la guerra contro l'Iraq, e hanno più o meno collaborato, fra molte virgolette, sotto traccia. Tutto è cambiato con la guerra del Golfo del 90-91, che neutralizza la minaccia militare irachena e toglie la ragione, cioè era il nemico comune un Iraq di Saddam Hussein. Senti, Pierluca, dobbiamo fermarci perché la sigla ci porta via, ma arriva un messaggio. Valentina Furlanetto ha specificato di aver detto un centinaio di morti tra israeliani e palestinesi.